La strega non si sapeva dar pace. «Che hai concluso?» mi domandava. «Non t'era bastato di esserti introdotto in casa mia come un ladro per insidiarmi la mia figliola e rovinarmela, eh? Non t'è bastato?» «No, cara suocera», le rispondevo, «perché se mi fossi arrestato lì vi avrei fatto un piacere, reso un servizio. Lo senti?» strillava allora la figlia. «Si vanta, osa vantarsi per giunta della bella prodezza che è andato a commettere con quella...» E qui una filza di laide parole all'indirizzo di Oliva. Poi, arrovesciando le mani sui fianchi, appuntando le gomita davanti, «Ma che hai concluso, eh? Non hai rovinato anche tuo figlio così? Ma già a lui, che gliene importa? È suo anche quello, è suo!» Non mancava mai di schizzare infine questo veleno, sapendo la virtù che esso aveva nell'animo di Romilda, gelosa di quel figlio che sarebbe nato a Oliva, tra gli agi e in Letizia, mentre il suo, nell'angustia, nell'incertezza del domani e fra tutta quella guerra. Le facevano crescere questa gelosia anche le notizie che qualche buona donna, fingendo di non saper nulla, veniva a recarle della zia Malagna, che era così contenta, così felice, della grazia che Dio finalmente aveva voluto concederle. Ah, si è fatta un fiore, non era stata mai così bella e prosperosa. E lei intanto, ecco, buttata lì su una poltrona, rivoltata da continue nausee, pallida, disfatta, imbruttita, senza più un momento di bene, senza più voglia neanche di parlare o da aprir gli occhi. Colpa mia anche questa? Pareva di sì. Non mi poteva più né vedere né sentire. E fu peggio quando, per salvare il podere della stia col mulino, si dovettero vendere le case e la povera mamma fu costretta a entrare nell'inferno di casa mia. Già, quella vendita non giovò a nulla. Il Malagna, con quel figlio nascituro che lo abilitava ormai a non avere più né ritegno né scrupolo, fece l'ultima. Si mise d'accordo con gli Strozzini e comprò lui, senza figurare, le case per pochi baiocchi. I debiti che gravavano sulla stia restarono così per la maggior parte scoperti e il podere, insieme col mulino, fu messo dai creditori sotto amministrazione giudiziaria e fummo liquidati. Che fare ormai? Mi misi, quasi senza speranza, in cerca di un'occupazione qual si fosse per provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia. Ero inetto a tutto e la fama che m'ero fatta con le mie imprese giovanili e con la mia scioperaggine non invogliava certo nessuno a darmi da lavorare. Le scene poi, a cui giornalmente mi toccava d'assistere e di prender parte in casa mia, mi toglievano quella calma che mi abbisognava per raccogliermi un po' a considerare ciò che avrei potuto e saputo fare. Mi cagionava un vero e proprio ribrezzo il vedere mia madre lì, in contatto con la vedova pescatore. La santa vecchietta mia, non più ignara ma agli occhi miei irresponsabile dei suoi torti, dipesi dal non aver saputo credere fino a tanto alla nequizia degli uomini, se ne stava tutta ristretta in sé, con le mani in grembo, con gli occhi bassi, seduta in un cantuccio, ma come se non fosse ben sicura di poterci stare lì a quel posto, come se fosse sempre in attesa di partire fra poco, se Dio voleva. E non dava fastidio neanche all'aria. Sorrideva ogni tanto Romilda, pietosamente, non osava più accostarsele, perché una volta, pochi giorni dopo la sua entrata in casa nostra, essendo accorsa a prestarle aiuto, era stata sgarbatamente allontanata da quella strega. Faccio io, so quel che debbo fare. Per prudenza, avendo Romilda veramente bisogno d'aiuto, in quel momento, m'ero stato zitto, ma spiavo perché nessuno le mancasse di rispetto. M'accorgevo intanto che questa guardia che io facevo a mia madre irritava sordamente la strega e anche mia moglie, e temevo che, quando io non fossi in casa, esse, per sfogar la stizza e votarsi il cuore della bile, la maltrattassero. Sapevo di certo che la mamma non mi avrebbe detto mai nulla, e questo pensiero mi torturava. Quante volte non le guardai gli occhi per vedere se avesse pianto. Ella mi sorrideva, mi carezzava con lo sguardo, poi mi domandava: «Perché mi guardi così? Stai bene, mamma?» Mi faceva un atto appena appena con la mano e mi rispondeva: «Bene, non vedi? Va da tua moglie, va. Soffre, poverina». Intanto le angustie crescevano e io non trovavo da porvi riparo. Furono venduti gli ori della mamma, cari ricordi, e la vedova pescatore, temendo che io e mia madre fra poco dovessimo anche vivere sulla sua rendituccia dotale di 42 lire mensili, diventava di giorno in giorno più cupa e di più fosche maniere. Prevedevo da un momento all'altro il prorompimento del suo furore, contenuto ormai da troppo tempo, forse per la presenza e per il contegno della mamma. Nel vedermi a girar per casa come una mosca senza capo, quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiatacce, lampi forieri di tempesta. Uscivo per levar la corrente e impedir la scarica, ma poi temevo per la mamma e rincasavo. Un giorno però non feci a tempo. La tempesta finalmente era scoppiata e per un futilissimo pretesto, per una visita delle due vecchie serve alla mamma. Una di esse, non avendo potuto metter nulla da parte perché aveva dovuto mantenere una figlia rimasta vedova con tre bambini, si era subito allogata altrove a servire, ma l'altra, Margherita, sola al mondo più fortunata, poteva ora riposare la sua vecchiaia col gruzzoletto raccolto in tanti anni di servizio in casa nostra. Ora, pare che con queste due buone donne, già fidate compagne di tanti anni, la mamma si fosse piano piano rammaricata di quel suo misero e amarissimo stato. Subito allora Margherita, la buona vecchierella che già l'aveva sospettato e non osava dirglielo, le aveva profferto d'andar via con lei, a casa sua. Aveva due camerette pulite, con un terrazzino che guardava il mare pieno di fiori. Sarebbero state insieme in pace. Oh, ella sarebbe stata felice di poterla ancora servire, di poterle dimostrare ancora l'affetto e la devozione che sentiva per lei. Ma poteva accettar mia madre la profferta di quella povera vecchia? Donde l'ira della vedova pescatore. Io la trovai rincasando con le pugna protese contro Margherita, la quale pur le teneva testa coraggiosamente, mentre la mamma spaventata, con le lacrime agli occhi, tutta tremante, si teneva aggrappata con ambo le mani all'altra vecchietta, come per ripararsi. Vedere mia madre in quell'atteggiamento e perdere il lume degli occhi fu tutt'uno. Afferrai per un braccio la vedova pescatore e la mandai a ruzzolar lontano. Ella si drizzò in un lampo e mi venne incontro per saltarmi addosso, ma s'arrestò di fronte a me. «Fuori!» mi gridò. «Tu e tua madre, via! Fuori di casa mia!» «Senti!» le dissi io allora con la voce che mi tremava dal violento sforzo che facevo su me stesso per contenermi. «Senti, vattene via tu ora con le tue gambe e non cimentarmi più. Vattene, per il tuo bene, vattene!» Romilda, piangendo e gridando, si levò dalla poltrona e venne a buttarsi tra le braccia della madre. «No, tu con me, mamma, non mi lasciare qua sola!» Ma quella degna madre la respinse furibonda. «L'hai voluto! Tientelo ora con questo mal ladrone, io vado da sola!» Ma non se ne andò, s'intende. Due giorni dopo, mandata, suppongo, da Margherita, venne in gran furia al solito zia scolastica per portarsi via con sé la mamma. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, ilterzoanello@rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.